luci bagnati sogni, ubriachi che nel cuore lasciano i segni, sogni demoliti dal tempo che non si reggono più in piedi. Tre cima all'inferno, restaci in eterno, nei meandri dell'oscurità farò un concerto, le fiamme come palco, la morte come spettatore, e avrò le corna, divorerò cadaveri sul set, sul manifesto scriverò che faccio rap. Nella sua fiamma mortale